Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica e bentornati a Nessuna è perfetta. Avete preso il caffè? Io, come sapete, il caffè l'ho già preso con la ministra Luciana Lamorgese, l'avete sentita. E se non l'avete ancora preso il secondo caffè della mattina, lo riprendiamo insieme qui a Nessuna è perfetta. Cominciando ad ascoltare subito i messaggi che ci avete lasciato rispetto alle puntate precedenti di Nessuna è perfetta. Lo sapete, il numero al quale lasciare i vostri messaggi è 828 12 12. Vi ricordate che un paio di domeniche fa abbiamo parlato di persone che anche grazie o per colpa al lockdown del Covid hanno cambiato vita professionale, come dire, scoprendo che quella che era una loro passione amatoriale poteva diventare un vero lavoro o viceversa. Ecco, ci avete lasciato dei messaggi all'828 12 12 su questo tema, sentiamone uno. Buongiorno Maria, io sarò molto breve. Io lavoravo per una compagnia assicurativa a Milano, adesso invece gestisco un bellissimo agriturismo nei pressi di Perugia. E ti dirò che dopo le prime difficoltà iniziali, adesso sento di aver fatto la scelta giusta e sono davvero felice. Buona giornata. Ti credo, l'agriturismo a Perugia, chi non sarebbe contento? Io credo che in molti stiano pensando o ripensando oggi all'idea di lasciare la città e tornare magari nel piccolo centro nel quale sono cresciuti da bambini, o ricominciare nella terra dei nonni. Tienici al corrente di come sta andando, incrociamo le dita e speriamo che tu abbia una primavera, un'estate di clienti che arrivano in massa. Vi ricordate anche che domenica scorsa con la professoressa Elsa Fornero, ex ministro del welfare, abbiamo discusso della detassazione, della riduzione delle tasse per le donne che lavorano. Una proposta avviata a suo tempo da due economisti di vaglia, lo scomparso purtroppo Alesina e Andrea Ichino, ebbene, ne abbiamo parlato con la professoressa Fornero e il tema evidentemente ha suscitato parecchio interesse da parte vostra. Ci sono arrivati all'828 12 12 un sacco di messaggi, ne prendiamo qualcuno. Applausi per la professoressa Torneo e la sua proposta. Ho smesso di lavorare dopo la nascita del mio secondo figlio perché, come giustamente osservato anche nella vostra trasmissione, non mi conveniva. Lavorare per pagare la babysitter? Anche no. Forse se ci fosse stata una tassazione più agevole per le donne che lavorano, avrei potuto prendere un'altra decisione. Ci torneremo per vedere se questa proposta va avanti o se, come è successo negli anni passati, fa un buco nell'acqua. E bisognerebbe anche capire perché fa un buco dell'acqua. Abbiamo cercato di approfondire nella puntata, ma ci torneremo. E oggi in qualche modo continuiamo l'argomento che abbiamo lanciato con la proposta della riduzione delle tasse per le donne che lavorano. E c'è una stretta correlazione, perché la crisi economica collegata alla pandemia la stiamo vivendo e, come molte di voi sanno, colpisce le donne che hanno piccole attività, microimprese, magari imprese che gestiscono da sole o con un paio di collaboratori. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro dopo il lockdown dimostrano che è un incremento tutt'altro che casuale quello della disoccupazione femminile, e questo significa un contraccolpo significativo sui diritti e le opportunità che i figli delle donne che perdono il lavoro perdono a loro volta, perché se mamma non ha più quell'introito, tante cose che si potevano fare prima, la piscina o un corso privato di danza, tutte quelle cose che aiutano la crescita di un bambino, non si possono più affrontare. Parleremo anche di questo e del futuro che ci attende, con la prima ospite di questa domenica. Benvenuta, buona domenica alla professoressa Anna Maria Tarantola, presidente della Pontificia Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice e già ai vertici sia di Banca Italia che della RAI, di cui è stata presidente. Ora, presidente Tarantola, noi questa mattina vorremmo un po' capire di che cosa si parlerà nei due eventi di cui lei è protagonista, quello che si è tenuto venerdì, Human Economy in the Post-Pandemic World, e di cui noi parliamo questa domenica, e anche tutto quello che riguarda il suo lavoro alla guida della Fondazione Centesimus Annus, alla luce delle tante problematiche che vengono poste in questi momenti post e anche durante Covid. Dunque, stiamo lavorando da tempo, ma sicuramente con, diciamo, l'evento purtroppo terribile della pandemia, questo nostro lavoro sta diventando sempre più attuale e sempre più importante. Stiamo lavorando sulla tematica di come realizzare concretamente un cambiamento nel modello di sviluppo economico che abbiamo avuto sino ad ora. Un modello che nel corso della pandemia ha mostrato tante lacune, tanti aspetti negativi, e quindi, come ci dice il Santo Padre, è importante che in questa fase, diciamo, di ricostruzione non si torni al vecchio modello. Il Papa ha parlato di un'economia malata e dell'impossibilità di essere sani in un'economia malata, e quindi di procedere invece ad una rigenerazione andando verso un modello diverso. Quello che noi vogliamo capire e discutere e trovare anche azioni concrete è quale questo nuovo modello, come lo si può realizzare appunto concretamente. Non è un'utopia, non è una cosa così neutrale, vaga, è una cosa concreta. Vuol dire passare da una economia che è concentrata sul capitale, e quindi sulla remunerazione del capitale, sull'importanza del capitale, sulla centralità del capitale come fattore economico, ad un'economia invece che è centrata sulle persone, e quindi un'economia che cerca non solo di produrre profitto per il capitale, ma di produrre benessere per tutti coloro i quali operano all'interno e all'esterno dell'azienda per il suo successo. È una cosa fattibilissima. Per esempio, quando si parla di economia verde, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che l'impresa adotta, per esempio, faccio un esempio molto semplice, delle fonti energetiche non inquinanti, e quindi raggiunge il suo obiettivo di produrre profitto, ma rispettando le persone che non vengono inquinate e la natura che non viene devastata. Quindi è un modo concreto l'economia circolare e tutte le altre forme, per esempio le Certo. benefit corporation, porsi obiettivi Però, diversi. Presidente Tarantola, non c'è dubbio, no, che Papa Francesco trovi orecchie attente ad ascoltarlo quando parla, e il vostro lavoro con la Centesimus Annus va in quella direzione. Ma mi chiedo quante e quali resistenze una rivoluzione, chiamiamola col nome giusto, una rivoluzione di questo tipo incontra. Proprio nei giorni scorsi, presentando l'ultimo libro dell'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, sull'idrogeno, lui stesso raccontava che fino a qualche anno fa pensare di utilizzare l'idrogeno come fonte di energia, lasciando a casa il petrolio, sembrava una cosa che non si sarebbe mai potuto fare anche per questioni di costi, e invece oggi è visto come il presente e il futuro. Però le chiedo appunto quante resistenze, perché mettere al centro la persona e far coabitare profitto e una nuova forma di impegno economico è molto bello, no? Sulla carta, ma poi ci sono le resistenze di chi invece ha interesse a continuare come si è fatto sempre prima. Sì, questo è un problema, diciamo che noi nella nostra attività, nelle nostre approfondimenti ed analisi troviamo un po' questa duplice linea. Da un lato, rispetto, come ha detto Vera, rispetto a qualche anno fa, c'è una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione a questa che lei ha chiamato rivoluzione. È un po' diventato, se lei va a leggere anche dei lavori, delle analisi di economisti di estrazione liberista, lei vede come si comincia sempre più a sentire la necessità di un passo diverso, di un salto e quindi è diventato quasi un must, no? Da parte anche degli stessi mercati, richiedere alle imprese di essere imprese sostenibili e solidali. Quindi c'è questo filone e che è stato accelerato dalla pandemia, perché la pandemia ha messo in luce, come dicevo prima, alcuni aspetti molto negativi del modello ancora attuale, tipo quello dell'ampliamento delle disuguaglianze. Dall'altro, quindi di fronte a questa evoluzione che va in senso positivo, come lei ha detto, ci sono anche delle resistenze. Perché? Resistenze perché intanto è difficile cambiare. Cioè, vediamo anche noi stessi, penso, no? Cioè, quando ci chiedono un cambiamento, la prima Certo. reazione è perché dobbiamo cambiare, che fino adesso è andato bene così. Lo dico in termini molto semplici. E quindi c'è una resistenza di fondo quasi naturale, tra virgolette. Dall'altro ci sono sicuramente dei costi da sostenere. Costi sia economici, perché la transizione non è una transizione a costo zero, e sia di tipo amministrativo, gestionale, quindi insomma si richiede veramente un cambio di passo di tipo importante. Per questo è quello che sta un po' emergendo e noi stessi sosteniamo è che ci vorrebbe un movimento generale che tocca non solo le imprese, ma la politica, le istituzioni internazionali e l'educazione, tutta l'ampia E area l'educazione, che è dell'educazione e della fondamentale. formazione, che è fondamentale, quindi diciamo veramente Certo. un lavoro a tenaglia, no? Un po', se dobbiamo crederci E tutti, noi dobbiamo cerchiamo di crederci. dare il nostro contributo parlandone qui in radio. Per l'ultima puntata, sì, l'ultima Grazie. puntata, l'ultima domanda e pochissimi minuti. La pandemia ha messo in crisi molte famiglie e anche molte donne che contavano su un lavoro, magari da piccolissime imprenditrici, avevano un negozio, avevano una piccola impresa, una di cura estetica. E la settimana scorsa noi abbiamo discusso qui con la professoressa Elsa Fornero di una proposta di riduzione delle tasse per le donne che lavorano. Lei che ne pensa? No, non la vedrei male, non ci ho riflettuto, diciamo, a lungo e mi dispiace dare delle risposte su cose su cui non ho, diciamo, fatto una riflessione approfondita, però così a caldo direi che non è male perché bisogna aiutare le donne. Bisogna aiutare le donne che sono una grande risorsa per il nostro paese e per tutti e che vanno veramente messe nelle condizioni di poter realizzare quelle che sono le loro capacità, le loro competenze, perché questo è un vantaggio enorme per tutti, nel senso che se noi abbiamo più donne sia che lavorano proprio diciamo, come forza lavoro, sia come imprenditrici, sia come dirigenti, noi abbiamo la prospettiva di una crescita sensibile del nostro benessere e anche della crescita proprio economica del PIL. Quindi perché no? Perché no? E se una strada è quella fiscale, ben venga, ben venga. Del resto anche Papa Francesco lo ricorda sempre che le società non danno abbastanza attenzione alla forza e all'energia. Per quello, che possiamo fare noi, lo ricordiamo qui ogni domenica. Grazie alla Presidente della Pontificia Fondazione. Nella pandemia le donne hanno dato tanto, hanno dimostrato di sapere dare un contributo rilevantissimo, con serietà, passione e grande impegno. Proprio così. Allora grazie ancora alla Presidente della Fondazione Pontificia Centesimus Annus, Anna Maria Tarantola, che è stata con noi questa domenica, Nessuna è Perfetta. Buon lavoro, perché mi sembra che ce ne sia tanto da fare. Grazie, grazie a tutti e una buona domenica a tutti, con affetto. Nessuna è perfetta. Sapete che in tutta Europa, nei mesi di lockdown, in molti è scattato o è tornato l'amore per la lettura. Gente che non aveva mai aperto un libro negli ultimi anni, invece si è scoperta di nuovo questa passione. Molti guardavano le serie TV, ma qualcuno invece ha ritrovato la passione per la lettura. E io sono molto curiosa di capire come vede questa straordinaria stagione, straordinaria nel male purtroppo, ma per certi versi anche nel bene, perché ci costringe a scoprire cose che di noi non sapevamo. Ecco, come vede questo lungo momento uno scrittore? E buona domenica, bentornato a Nessuna è Perfetta ad Alain Elkann, che è giornalista e scrittore. Ogni domenica le sue interviste sul quotidiano La Stampa aprono sempre degli squarci di curiosità su mondi che non sempre sono approfonditi, e ora è di nuovo in libreria con il suo ultimo romanzo, Una giornata, pubblicato da Bompiani. Buona domenica, Alain Elkann. Buona domenica, Maria, e buona domenica ai tuoi radioascoltatori. La tua domanda è come uno scrittore attraversa questo periodo, perché non è finito. E non lo so, cioè siamo tutti colti di sorpresa, no? Non eravamo abituati all'esistenza di qualche cosa che fosse più grande di noi, che fosse capace di bloccare le nostre vite, la vita di tutti, interi paesi. Eravamo abituati a poterci muovere liberamente e di colpo non è stato più possibile. Ci abituiamo a questa visione lunare quasi, no? Di persone che attraversano le città con delle maschere, e viviamo tutti ormai mascherati, grandi e bambini, e quindi insomma è un modo di vivere completamente nuovo. Certamente il periodo del lockdown è stato un periodo per certi spaventoso e difficilissimo, e poi non parliamo delle conseguenze. Ma certamente per uno scrittore è stato un periodo, direi, quasi tranquillo, se uno poteva stare in un luogo un po' riparato. E io ho potuto leggere, scrivere, fare delle passeggiate e soprattutto mettermi in contatto molto di più con la natura, perché abbiamo vissuto un lungo periodo di silenzio, quindi riscoprire il silenzio, ascoltare i cinguettii degli uccelli, vedere piano piano la primavera che sboccia, accorgersi di tante cose di cui non ci si accorgeva forse prima, si faceva meno attenzione. E quindi siamo entrati. Il romanzo che è in libreria, Una giornata, si svolge tutta nell'arco di un giorno e ha come protagonista un apprezzato direttore di un museo parigino, il quale fa i conti con la sua vita. In che senso? Beh, appunto, no? Così come abbiamo detto che la pandemia ci ha colti così inaspettatamente. L'anno scorso a quest'epoca non ci pensavamo nemmeno. Ebbene, Edmond Beauvais-Maurice, il protagonista del mio romanzo Una giornata, inizia male la giornata, così, con un fastidio perché appunto si sente a disagio col suo corpo, è ingrassato, ha un neo che gli dà fastidio, eccetera, e comincia questa giornata faticosa, dove succederanno molte cose dentro di lui, perché mentre vive la vita della sua giornata ritornano continuamente dei ricordi non piacevoli del suo passato, dei dubbi sulla sua vita, che gli vengono anche ricordati dalle circostanze. Lui pensa, è sicuro di finire la sua carriera diventando accademico di Francia, e quindi prende questo con una certa vanità, e piano piano nella giornata si scopre che questa cosa, per misteriose cose del passato, eccetera, non sarà così facile e forse addirittura sarà impossibile. In mezzo a questo incontra affetti, donne che ama o che crede di amare, che ha amato in passato, degli amici, un vecchio dottore che è una sorta di confidente. E poi tutto questo si svolge nelle strade di Parigi, perché in fondo lui è il protagonista del romanzo, ma Parigi è la scena teatrale di questo romanzo, no? Questa città che lui ama profondamente, che gli ha dato successo, che gli ha dato tutto nella vita, lui in quella giornata la attraversa così in dei luoghi che gli sono abituali o che gli sono cari, e ogni luogo improvvisamente rievoca dei ricordi in lui. E quindi questa è una cosa. Dal punto di vista della scrittura è stato un esercizio molto interessante per me costruire un libro che si svolge tutto in un arco di tempo breve, cioè la giornata, e quindi un po' come un architetto o come un ingegnere ho dovuto costruire in modo molto preciso questi orari, no? Cioè il lettore deve avere l'impressione di seguire quest'uomo nelle diverse ore della giornata fino a notte fonda, e questo è stato un esercizio nuovo nella mia scrittura, ecco, senz'altro, cioè questa arco di tempo chiuso che è la giornata, e dentro a questa giornata avviene di tutto, è una forma di sconvolgimento, ma come uno sparigliamento delle carte nella vita di questo signore che sembrava così sicuro di sé e così tranquillo del suo destino. Un po' quello che è successo alle vite di tutti noi, che seguivano dei binari che sembravano appunto avviate a una routine, e poi invece la routine di colpo è diventata tutta un'altra nei mesi di lockdown. È stato un romanzo scritto nei mesi appunto in cui vivevamo un po' segregati, questo, o è un romanzo che è stato scritto prima del lockdown? Devo dire la verità, è stato scritto prima del lockdown. Durante il lockdown ho lavorato a un altro romanzo, ma quello che mi sta interessando molto è ormai negli ultimi libri e così è il nostro destino, no? Come ognuno di noi ha un destino e come ci costruiamo delle sicurezze che in realtà non lo sono, perché la vita è affascinante anche per il suo mistero e per gli imprevisti che possono succedere fuori o dentro di noi. Ecco, nel mio romanzo, la cosa affascinante di questo libro forse è che lo sconvolgimento della vita del mio protagonista avviene in una giornata, no? Ed è lui dentro di sé che ha questo sconvolgimento, anche se tutto ciò si svolge nella Parigi che lui ama, una Parigi di mattina, di pomeriggio, di prima sera e di notte profonda. Mi piace molto l'ultima passeggiata che c'è, che conclude la giornata, no? Attraverso questa Parigi semideserta di notte. Ma nello stesso tempo, invece, nella pandemia siamo stati presi di sorpresa globalmente, cioè la pandemia non è un fatto individuale, è un fatto che ha annullato tutte le differenze, no? Perché chiunque se la può prendere, non ci sono realmente privilegi, e così è un fatto mondiale, globale, al quale... Come dimostra anche il fatto che il presidente degli Stati Uniti è stato colpito dal Covid. Sì, il primo ministro inglese, il principe Carlo d'Inghilterra, cioè delle persone che sembrerebbero essere protette da ogni tipo di guardie, di cure, eccetera, eccetera, hanno finito per prendere questa cosa. E poi ci ha ravvicinato anche, alla fragilità umana, no? Al fatto che appunto anche questa cosa impressionante che sono le persone più anziane che sono più colpite, si credeva di poter vivere molto molto a lungo, che ormai quasi le medicine moderne permettevano di avere delle vite lunghissime, e invece queste medicine in questo caso sono poco efficaci. Si sono rivelate fallibili. E quindi certo. ci hanno privato dei nonni, ci hanno privato di persone care, poi anche questo fatto di essere lontani dalle persone che si amavano. Quindi da un lato l'esplosione della natura, no? Una bellezza a cui non eravamo abituati, sulla quale non eravamo abituati a soffermarci, a capirla, a apprezzarla, eccetera, e dall'altro lato persone che hanno vissuto esperienze spaventose in città soffocanti, no? Come New York, questa città simbolo della riuscita, della forza, eccetera, di colpo colpita così severamente. Desertificata, no? Certo. E quindi, non lo so, è un'epoca che non è finita, non sappiamo quando e come finirà, non sappiamo in realtà quali saranno le cose, molti dicono tutto sarà diverso, altri dicono no, appena finisce sarà come prima, non lo sappiamo. Comunque quando succede qualcosa, comunque le cose cambiano, e infatti per esempio il mio protagonista, a cui in realtà non succede moltissimo in quella giornata, no? Però capisce che le conseguenze di quella giornata cambieranno completamente la sua vita. Quindi... Alain Elkann, grazie per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta, e chissà se ai nostri ascoltatori è capitato che in una giornata cambiasse la loro vita. Fatecelo sapere, 828 12 12, e intanto buona domenica ad Alain Elkann, e il suo romanzo Una giornata, pubblicato da Bompiani, lo trovate già in libreria, era in libreria dal 7 ottobre scorso. Grazie, buona domenica Alain. Grazie Maria, grazie, e un saluto caro ai tuoi radioascoltatori. Nessuna è perfetta. Prima parte di Nessuno è Perfetta. Allora, abbiamo parlato nella prima parte con la presidente della Fondazione Centesimus Annus di economia, di proiezioni del futuro, del ruolo delle donne anche, e di donne continuiamo a parlare. Perché? Perché il Recovery Fund, cioè i soldi che arriveranno dall'Europa, non deve dimenticare che il cambiamento passa anche attraverso una maggiore utilizzazione dell'energia, delle potenzialità delle donne. Ed è di questo che vogliamo parlare con la nostra ultima ospite di questa puntata, la professoressa Azzurra Rinaldi, che è un'economista, insegna alla Sapienza, e venerdì scorso, alla presenza del sottosegretario allo sviluppo economico Manzella, ha presentato alla Camera l'iniziativa che si chiama Il Giusto Mezzo. Di che si tratta e perché le donne non devono essere dimenticate questa volta? Grazie, si tratta di un'iniziativa che chiede che i fondi che sono in arrivo con Next Generation vengano utilizzati nella maniera più efficace possibile. Questo soprattutto nel nostro paese, che comunque presenta una grande disparità di genere, e nel paese nel quale il tasso di occupazione femminile è particolarmente basso. Noi aspettiamo purtroppo una grande crisi economica e abbiamo bisogno che tutte e tutti lavorino, contribuiscano a produrre reddito e contribuiscano ad ostacolare la crisi. Questo è quello che chiede Il Giusto Mezzo. E Quindi l'idea è che un quarto o quanto dei fondi, dei 209 miliardi che l'Italia ha ottenuto, vengano investiti e come per dare finalmente alle donne italiane il diritto al lavoro, che è spesso negato dalla impossibilità di gestire famiglia e lavoro, oppure mettere a frutto gli studi che sono stati fatti, perché il lavoro proprio, per esempio, al sud non c'è. Come, su quali programmi il vostro progetto Il Giusto Mezzo punta? Sì, l'idea è che tutti i fondi che arrivano devono essere valutati in una prospettiva di genere, come richiesto dal Piano Colao, come richiesto dal Parlamento Europeo. Il Giusto Mezzo propone che i soldi che arrivano vengano letti in una prospettiva di genere e non siano gender blind, quindi considerino il lavoro delle donne, ma in una prospettiva di efficienza per tutti. Il Giusto Mezzo è una petizione che si può firmare sul sito Il Giusto Mezzo .it è attivo su tutti i social, dove spieghiamo volta per volta quali sono le iniziative in termini di investimenti che il Paese deve mettere in campo per far sì che questi soldi vengano spesi efficientemente. Grazie, buona domenica a lei, professoressa, e a tutti quelli che ci hanno seguito, prima con il caffè della domenica e poi con Nessuno è Perfetta. Ci ritroviamo domenica prossima. Un grazie in regia ad Alessandro Chiappini, un grazie a Gaia Romani e, come sempre, un grazie a tutti voi che ci seguite da 6 anni. Ciao! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.